Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, anzi buon pomeriggio, sono le 17:06 minuti tra pochissimi secondi, nuovo appuntamento con Focus Economia, inizio di settimana, a dir la verità non proprio entusiasmante dal punto di vista dei mercati, lo vedremo tra brevissimo. Oggi non si sono risvegliati bene dopo la pausa delle feste, Londra resta chiusa ancora per festività. Ma le colleghe europee e anche quelle asiatiche non hanno portato a casa, non stanno portando a casa una buona performance, così come sta succedendo anche negli Stati Uniti. I temi che affronteremo quest'oggi: partiremo dall'accordo di Mirafiori, cercheremo di capirne di più di questo accordo, i punti principali, e poi cercheremo anche di allargare un po' il discorso per capire se l'abbandonare il contratto nazionale può interessare, può favorire gli imprenditori in generale, in particolare i piccoli imprenditori che forse potrebbero ritrovarsi un po' più esposti e quindi non avere proprio tutto questo grande interesse a lasciare la cornice di un accordo nazionale, di un contratto nazionale. E poi parleremo di pensioni, ne parleremo perché tra pochissimi giorni, nel 2011, entrano in vigore alcune novità importanti che dovrebbero completare definitivamente tutto il quadro relativo alla riforma delle pensioni. Capiremo anche qualcosa di più, non solo di queste novità, ma anche guardando in prospettiva che cosa succederà nei prossimi anni, soprattutto per i giovani, e quindi cosa succede quando si andrà in pensione tra 15, 20 o anche una trentina d'anni. E poi parleremo di Cina perché in circa due mesi la Cina ha deciso di rialzare i tassi, l'ultima decisione risale al giorno di Natale, il 25, e questo non ha favorito l'apertura di borsa oggi per quanto riguarda l'Europa, ma non ha favorito neanche la giornata borsistica per quanto riguarda le piazze asiatiche. Vedremo se questa decisione di rialzare i tassi porterà anche al rafforzamento della moneta cinese, da così tanto tempo chiesta con grande vigore dagli Stati Uniti. 349-238-6666 per i vostri sms. In breve andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Come preannunciato, non è stata una giornata positiva, si annuncia una chiusura in calo. Per quanto riguarda Milano, anche un calo abbastanza consistente. Parigi c'è dello 0,93%, Francoforte l'1,14%, ricordiamo che Londra è chiusa per festività, è ancora chiusa per festività. A Milano il FTSE All Share c'è dell'1,24%, il FTSE MIB l'1,32%, e in questo momento l'unico titolo che riesce a guadagnare qualcosa, davvero poco, è Parmalat, che è in progresso dello 0,24%. Per il resto tutti i titoli sono in rosso, il peggiore è Fiat, che cede quasi 3 punti percentuali dopo aver corso molto, però diciamolo, nelle ultime due settimane. Oggi appunto cede, per l'esattezza in questo istante, il 2,96%. Pesano sui listini non solo la decisione della Cina di aumentare i tassi, ma anche una certa debolezza del dollaro. Questo ci porta negli Stati Uniti, dove in questo momento il Dow Jones cede uno 0,28%, il Nasdaq lo 0,71%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,3154 sul biglietto verde. E adesso però, prima di avviarci verso uno dei nostri temi principali, che sarà appunto quello di Mirafiori, andiamo subito a vedere quali sono le notizie in breve di oggi. Come al solito partiamo dalle materie prime, oro in rialzo sui mercati asiatici, il metallo ha guadagnato lo 0,2% a $1,384,20 l'oncia. Il petrolio oggi apre in calo, aperto in calo a New York, meno 0,5% a $91,05. Il greggio rimane tuttavia sui livelli più alti degli ultimi due anni, anche a causa dell'ondata di freddo che sta investendo l'area orientale degli Stati Uniti. In mattinata è arrivato fino a 91,88 dollari, in rialzo dello 0,4%, il massimo dal 7 ottobre del 2008. L'oro nero ha poi frenato la corsa con gli investitori prudenti dopo che la Cina appunto ha ribadito il proprio impegno a lottare contro l'inflazione mettendo mano ai tassi di interesse. Parlando di petrolio, dobbiamo parlare anche di benzina. In arrivo rincari, al sud sfiora 1,5 euro al litro, come spesso accade nei periodi legati alle festività o alle ferie in generale. Prosegue questa tendenza al rialzo dei prezzi della benzina e del diesel. Tra venerdì e oggi IP, Tamoil e Total Erga hanno messo mano ai prezzi raccomandati dei due prodotti, aumentandoli di un centesimo nel primo caso e di 0,5 centesimi nell'altro caso. Sul territorio si registrano rialzi generalizzati sui prezzi medi praticati e valori che superano per taluni marchi 1,47 euro al litro per la benzina e 1,35 per il diesel. In alcuni impianti del sud, come vi dicevamo, la verde sfiora quota 1,5 al litro, mentre il gasolio si avvicina a 1,38 euro al litro. E proprio a questo proposito i gestori sono stati convocati dal ministro Romani alle 17, quindi da pochissimo dovrebbe essere iniziato questo incontro. I sindacati dei gestori convocati nella sede milanese del Ministero dello Sviluppo Economico per comunicazioni urgenti. Questo è quanto si è appreso poco fa da fonti sindacali. I benzinai avevano minacciato, ricordiamo, lo sciopero a cavallo tra Natale e Capodanno per protestare contro il mancato rinnovo del bonus fiscale atteso nel milleproroghe. L'economia internazionale, lo abbiamo detto, ne parleremo anche nel corso della puntata. Chiusura in ribasso per le borse cinesi dopo che la banca centrale ha innalzato sabato i tassi di interesse dietro le speculazioni su una stretta sulla politica monetaria per combattere l'inflazione. Con la borsa di Hong Kong chiusa per festività, sono state Shanghai e Shenzhen a far registrare pesanti cali. L'indice composite della borsa di Shanghai ha chiuso con una flessione dell'1,9%. La perdita è legata anche alla decisione della banca centrale di aumentare di 0,25 punti percentuali il tasso di interesse annuale di deposito, il secondo aumento in due mesi. I titoli legati al real estate sono quelli che hanno registrato oggi le perdite peggiori. Che succede in Cina? La banca centrale cinese, che appunto lo abbiamo già detto, a Natale ha alzato il costo del denaro per la seconda volta in pochi mesi, continuerà a ricorrere alla leva dei tassi e delle riserve per gestire la liquidità e tenere sotto controllo l'inflazione, divenuta una vera e propria priorità, anzi forse la prima preoccupazione per il governo. Questo è quanto ha preannunciato il vice governatore della Banca Popolare della Cina, Wu Xianlian. A questo proposito, la Banca Popolare cinese ha affermato di essere pronta a migliorare il meccanismo che sta alla base del tasso di cambio dello yuan. Questo è quanto ha detto il vice governatore dell'istituto centrale. La Cina ha abbandonato il cambio fisso contro il dollaro, ma mantiene lo yuan all'interno di una fascia stabilita dalle autorità, nonostante gli Stati Uniti e l'Europa invochino da tempo un apprezzamento della sua divisa. E veniamo all'Italia, stretta in arrivo per chi vuole andare in pensione. Questo sarà il nostro secondo tema della giornata. Da gennaio saranno necessari almeno 61 anni per uscire dal mercato del lavoro a causa dello scatto del terzo scalino previsto dalla riforma del 2007. L'età minima per l'assegno di anzianità passa da 59 a 60 anni a fronte di almeno 36 anni di contributi, e per questo si parla di quota 96. Dopo capiremo meglio della contemporanea entrata in vigore delle nuove regole sulla finestra mobile. Anche in questo caso capiremo poi bene 12 mesi di attesa una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi, modifiche varate quest'estate. In pratica i lavoratori dipendenti che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi poi non potranno uscire dal mercato del lavoro prima di aver compiuto i 61 anni. La macchina antievasione fiscale è ormai avviata ed è in grado di recuperare le somme dovute in modo forte, consistente e continuo. E quest'anno il fisco prevede di recuperare 10 miliardi di euro, due in più rispetto allo scorso anno. A dirlo è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befero. Nuovo calo a due cifre per la raccolta assicurativa del ramo vita. A novembre la nuova produzione del settore è ammontata a 4,3 miliardi di euro, registrando una contrazione di oltre il 22%. Questo è quanto emerge dagli ultimi dati dell'ANIA. Sarà di 415 euro la spesa media delle famiglie italiane per gli acquisti nei saldi invernali. La previsione arriva dalla Confcommercio, che sottolinea come nel complesso si spenderanno in abbigliamento e accessori circa poco più di 6 miliardi di euro, pari al 18% del fatturato dell'intero settore. In media, secondo un'indagine dell'Associazione dei commercianti, ogni persona spenderà 173 euro. I saldi partiranno il 2 gennaio a Napoli, Palermo, Potenza e Catanzaro, mentre i consumatori di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Torino e Genova, in generale del Nord Italia, dovranno aspettare fino alla Befana. Veniamo ai comuni italiani. Stamattina 206 precari del comune di Siracusa hanno firmato il contratto di stabilizzazione e da oggi lavoreranno a tempo indeterminato nell'amministrazione comunale. Il commissario dello Stato ha recentemente approvato il DDL approvato lo scorso 14 dicembre dalla Regione Sicilia, che prevedeva un percorso di stabilizzazione per poco più di 22.000 precari degli enti locali siciliani, ma Siracusa, grazie anche al turnover, ha portato a conclusione la procedura di assunzione rifacendosi alla legge Brunetta e usando i finanziamenti già concessi dalla regione. Questo è un altro caso di cui forse probabilmente ci occuperemo nei prossimi giorni, parlando anche forse di federalismo. Diciamo che ci sono molte differenze tra regioni del nord e regioni del sud, tra le varie regioni, riguardanti le spese per gli organi istituzionali. Ad esempio, un cittadino lombardo sborsa 21 euro, secondo uno studio della Confartigianato, 21 euro l'anno per gli stipendi dei dipendenti regionali, in Molise 173 euro, in Basilicata 100 euro, in Umbria 82, in Campania 70 euro. La Thyssen, torniamo a parlare della Thyssen, 6 mesi di proroga della cassa integrazione in deroga, la conservazione dell'incentivo di 20.000 euro lordi, l'inserimento di una clausola che non comporta di fatto la necessità di revocare la costituzione di parte civile al processo per la morte dei 7 colleghi. Questo prevede l'accordo raggiunto oggi a Torino fra la ThyssenKrupp e gli ultimi 18 lavoratori della multinazionale ancora non ricollocati. La mobilità sarebbe scattata il 31 dicembre. Ricordiamo che questi lavoratori qualche giorno fa hanno protestato in maniera molto forte, rivolgendosi anche al capo dello Stato. L'auto. Nei primi 9 mesi del 2010, tra i principali paesi produttori di automobili nell'Unione Europea, l'Italia ha prodotto circa 500.000 autovetture, con un'incidenza rispetto alla produzione totale europea, pari a poco più di 11 milioni di vetture, appena il 3,9%. La quota dell'Italia risulta leggermente superiore solo a quella della Slovacchia, in pratica agli ultimi posti in Europa. Questo è quanto emerge dai dati sulla produzione nell'Unione Europea dei primi 9 mesi dell'anno di diffusi dall'ACEA, l'associazione che riunisce i costruttori di automobili europei. La Germania è di gran lunga il paese il maggior costruttore sia di veicoli sia di autovetture. Sul totale dei paesi europei la sua produzione ammonta nei 9 mesi ad oltre 4 milioni di unità, che corrispondono al 36,4% del totale. E restiamo in Germania, perché Audi ha in programma di investire poco più di 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Più di 5 miliardi saranno appunto destinati ai siti produttivi tedeschi, lo comunica la società in una nota nella quale viene anche indicato che il piano del gruppo prevede anche l'assunzione di 1.200 lavoratori il prossimo anno, quindi tutti nel 2011. L'innovazione richiede personale, questo ha spiegato il responsabile delle risorse umane della casa tedesca di auto di lusso. L'80% degli investimenti previsti dal 2011 al 2015, ovvero più di 9,5 miliardi, spiega la nota, sarà destinato allo sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie come sistemi elettrici o ibridi. E con questa notizia passiamo proprio al nostro primo tema di oggi, l'accordo per lo stabilimento Fiat di Mirafiori. scritto in 36 pagine l'accordo per i nuovi criteri di produzione a Mirafiori, sottoscritto da azienda e sindacati ad esclusione della FIOM, CGIL, sarà sottoposto a un referendum a gennaio, metà gennaio. Il nuovo contratto non aderisce al sistema confindustriale, i circa 5.500 operai delle carrozzerie di Mirafiori saranno così licenziati dalla Fiat e riassunti dalla NewCo, frutto della joint venture tra Fiat e Chrysler, appunto con il nuovo contratto. L'obiettivo è incrementare la capacità produttiva dello stabilimento torinese fino a 280.000 vetture l'anno. Fiat investirà nel progetto oltre 1 miliardo di euro. Fiat e sindacati si riuniranno domani a Roma per mettere appunto il contratto di lavoro per la NewCo dello stabilimento di Pomigliano, che comincerà ad assumere da gennaio 2011 dipendenti dell'impianto campano della Fiat. Allora, noi parliamo di questo accordo anche perché i punti sono stati resi noti oggi in giornata, quindi ne sappiamo di più da poche ore, con il professor Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, presidente dell'Istituto Ref IRS, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, mi ostino a dire buongiorno, invece è pomeriggio. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, professore, io velocissimamente ricorderei alcuni dei punti fondamentali di questo accordo, anche perché sennò non si capisce bene di che cosa stiamo parlando. Molto sinteticamente, l'accordo verte anche su cose proprio molto concrete, ad esempio le pause. Oggi sono 3 pause per un totale di 40 minuti, con il nuovo accordo saranno 3 pause da 10 minuti, per cui si sottraggono 10 minuti ai lavoratori, che verranno compensati con 45 euro lordi in busta paga. Poi c'è un punto molto importante sulla malattia e l'assenteismo: se supera il 6% non viene pagato il primo giorno di malattia, a chi si assenta per periodi inferiori a 5 giorni, nei giorni che precedono seguono festività o ferie o giorni di riposo. Diciamo che questa stretta poi diventa ancora più stringente dal 2012 in avanti. Ancora, cassa integrazione: dal 14 febbraio 2011 tutti i dipendenti di Mirafiori sono in cassa integrazione straordinaria, perché il 13 febbraio scade la cassa integrazione e verranno richiamati in fabbrica in base alle richieste del mercato. Lo straordinario: l'azienda può obbligare i dipendenti a fare fino a 120 ore di straordinario all'anno senza il via libera dei sindacati. Con il benestare dei sindacati si possono aggiungere altre 80 ore, con aumenti lordi calcolati intorno ai 3.700 euro sempre lordi l'anno. Ci sono poi dei cambiamenti negli orari, quindi nei turni: ad esempio si potranno inserire turni di 10 ore, lavorare 4 giorni e poi riposare per 3 giorni. C'è poi la famosa clausola di responsabilità già prevista a Pomigliano: il non rispetto degli impegni assunti con l'accordo comporta sanzioni in relazione a contributi sindacali, permessi per direttivi e permessi sindacali aggiuntivi allo statuto dei lavoratori. Ovviamente noi abbiamo riassunto molto in sintesi, perché 36 pagine non potevano essere lette tutte in diretta. Io, professore, le chiederei, proprio per cominciare, un suo commento su questo accordo, un commento di massima. Sono due aspetti. Uno relativo alle condizioni della Fiat, di Mirafiori e le prospettive. L'altro invece è più di carattere generale, perché può investire tutto il sistema delle relazioni industriali, quindi una portata nazionale, esterna alla Fiat. Sì. Rimaniamo al primo punto, sì. Gli aspetti interni. Forse va fatto chiarezza su un aspetto, perché altrimenti gli ascoltatori potrebbero rimanere sconcertati, perché da un lato la Fiat chiede la cassa integrazione, la riduzione delle ore di lavoro, e dall'altro chiede invece più straordinario, più turni, meno pause, eccetera. Allora dice, ma allora di che cosa stiamo parlando? Esatto. Allora bisogna distinguere i tempi. Attualmente la Fiat, come molte imprese automobilistiche, l'avete detto anche voi, è un po' in crisi di mercato. Sì. E quindi ha bisogno di cassa integrazione, perché la produzione, diciamo, sarebbe in eccesso rispetto alla domanda. Sì. E questa è la situazione attuale. Però in prospettiva la Fiat vuole investire. Vuole investire per essere più competitiva, per guadagnare quote di mercato e anche in attesa di un'eventuale ripresa. Pensiamo al domani. Agli investimenti. Questi investimenti, i nuovi macchinari, nuova organizzazione, richiederanno invece uno sforzo maggiore dal punto di vista degli orari, più lunghi, più straordinario e più turni. Ecco, di questo si parla, quindi quando si parla, diciamo, di questo nuovo accordo, è in prospettiva, nel momento in cui verranno fatti gli investimenti, richiederanno un po' di tempo, si chiede ai lavoratori una disponibilità maggiore a più turni, perché più capitale richiede più ore di lavoro per utilizzare al meglio il capitale, renderlo più produttivo e ammortizzarlo più velocemente. Ecco, questi sono aspetti che vanno tenuti presenti, perché altrimenti non si capirebbe come al contempo si vogliono orari più lunghi e si mette la gente in campo. Sì, certo, certo. Poi c'è invece gli aspetti, secondo aspetto, le nuove relazioni industriali. Ecco. Allora qui la cosa è un po' più complessa, cerchiamo di riassumerla brevemente. Un nuovo contratto di lavoro in uno stabilimento che esce dal sistema Confindustriale. E quindi cosa vuol dire questo? Che tutte le norme di diritto sindacale, cioè le norme che derivano da accordi sindacali, non si applicano più automaticamente, si applicano alla legge, per esempio lo statuto dei lavoratori chiaramente si applica, ma per esempio non si applica più un accordo, quello del 93, il famoso accordo sul costo del lavoro, sì. Era di origine sindacale, se uno esce dalla Confindustria, esce dagli accordi sindacali. Questo è un aspetto rilevante per una cosa a cui la FIA ci tiene molto, e cioè che se non si applica più l'accordo del 93, ma solo lo statuto dei lavoratori, in azienda, nella FIA, non ci saranno più le RSU elette da tutti i lavoratori, sì. Ma ci saranno le RSA che saranno composte solo dai sindacati che hanno firmato l'accordo. L'accordo. Ecco, allora a questo proposito io ho due domande da farle, professore. La prima è proprio in relazione a quanto lei appunto sta dicendo adesso. Conviene in un momento come questo, in cui comunque il paese attraversa un momento molto delicato, e il 2011 dal punto di vista del mercato dell'occupazione sarà un momento molto delicato, perché molte aziende non ce la faranno, conviene mettere fuori dall'azienda un sindacato come la FIOM, che è comunque il primo sindacato a Mirafiori? Questa è la preoccupazione della Confindustria, questa è la preoccupazione certamente della CGIL, ma bisogna riconoscere che è una preoccupazione di tanti, non tutti, ma di tanti imprenditori del settore metalmeccanico, sì. Che diciamo così, quotidianamente devono contrattare anche con la FIOM a livello aziendale, perché la FIOM è un sindacato importante e presente. Allora temono quello che lei sta dicendo, e cioè che inasprire rapporti con questo sindacato può avere delle ricadute anche al di fuori della Fiat, e mettere difficoltà, sì. Nelle relazioni industriali di altre imprese. Di qui l'invito della Confindustria alla Fiat, che è quello di dire: va bene fare un contratto aziendale fuori del sistema Confindustriale, ma sia solo temporaneo. Alla fine di gennaio, nel giro di un mese, a livello nazionale pensiamo di fare un contratto ad hoc per l'auto. A maglie larghe. Certo. Entro il quale può rientrare il contratto aziendale. Proprio a proposito di questo accordo, ancora ovviamente non era stato sottoscritto, perché ricordiamo è stato firmato a Natale, sentiamo quanto aveva dichiarato Sergio Marchionne, intervistato da Mario Platero. Abbiamo perlomeno stabilito dei punti di riferimento per poter firmare un contratto auto che dà la flessibilità necessaria alla Fiat e protegge tutti i diritti necessari dei nostri lavoratori, ma il contesto esiste. Ma deve essere un contesto che ha a che fare con l'auto, non i contesti generalizzanti non funzionano. Il mondo è cambiato da quando stava firmato quell'affare lì, quindi io non voglio togliere i diritti dagli altri, ma ho anche bisogno della flessibilità necessaria per andare avanti. Pensa che la New Co possa diventare un punto di riferimento per altre forme contrattuali in Italia? Credo nel campo dell'auto o della componentistica potrebbe che lo sia. Come si dice in inglese, c'è start. Bisogna cominciare pure da qualche parte, no? Poi il grande lavoro che da fare è fare in fabbrica con i nostri. A dare a loro la libertà di agire e di creare un futuro insieme alla Fiat. Questo è il vero scopo, è questo. Dare loro i mezzi per diventare competitivi. È l'unico modo per garantirgli un futuro, se no stiamo perdendo tempo. La proposta che abbiamo fatto in Mirafiori è molto molto più più generosa di quella che è stata fatta a Detroit, no? Nel senso che non abbiamo ridotto salari, non abbiamo fatto assolutamente niente, vogliamo semplicemente cambiare il sistema, proprio le regole operative di una fabbrica dell'auto per essere competitiva, perché il problema non è con i 10 minuti di pausa, i 5, sono necessarie perché fanno parte di un ciclo dove diamo il massimo utilizzo all'investimento che viene fatto. Qui parliamo di investimenti di oltre 1 miliardo di euro, quindi per portare, siccome questi investimenti sono rischiosi di natura e devono produrre il massimo possibile per giustificare il farlo. Quindi se lei mi comincia a ridurre la capacità del sistema a produrre vetture perché non gira la macchina, mi mette ostacoli dappertutto, l'investimento non lo posso fare lì, no? Ovviamente c'è un piano B, no? Bisogna fare la macchina, mi serve, quindi bisogna fare un'altra parte la vettura, non è che abbiamo scelto. Poi abbiamo un'altra parte, abbiamo il brand americano qui da vendere, che scherziamo. Allora, professore, l'amministratore delegato di Fiat diceva ci sono vincoli, ostacoli dappertutto, se non si eliminano questi vincoli, gli investimenti che sono già rischiosi di natura non possono essere fatti lì dove vengono posti degli ostacoli. Però è anche vero che giustamente qualcuno ci scrive qui, insomma, sempre meno diritti, chi paga tutto questo? I lavoratori a 1000 euro al mese, perché ricordiamo che gli operai Fiat rispetto agli operai non tanto più distanti che sono quelli tedeschi prendono notevolmente in meno. Beh, guardi, questa è un'obiezione non corretta, perché qui non è che si chieda di ridurre le retribuzioni, come peraltro in Germania talvolta si è fatto, non si chiede questo, si chiede più flessibilità degli orari, cioè più disponibilità orario straordinario e disponibilità anche questo turno del sabato notte. Di per sé queste non sembrano richieste che vengono dal mondo della luna, forse sulla pausa c'è qualche sacrificio effettivo che si chiede ai lavoratori, ma noi abbiamo tanti lavoratori in Italia che lavorano sui turni di notte, hanno orari certo. straordinari, orari disagiati, pensiamo ai servizi pubblici essenziali, certo. quindi non mi sembra, anzi diciamo che se viene accettato questo sforzo di fornire un orario un po' meno agiato, un po' disagiato, beh, nella busta paga dei lavoratori verranno le maggiorazioni per orario straordinario e per turno, quindi di per sé è stato fatto il calcolo che di qualche migliaio di euro all'anno le retribuzioni possono aumentare. Possono aumentare. L'altra domanda che volevo farle in precedenza e che alla quale poi in parte lei ha già risposto, questa cornice nazionale che in questo modo viene scalfita, non conviene anche agli imprenditori e soprattutto ai piccoli imprenditori? Sì, penso di sì. Molti anche imprenditori del settore metalmeccanico sì. rivendicano l'esistenza di un contratto nazionale, anche perché molto spesso non vogliono dedicare molti sforzi, molta attenzione, molto confronto a livello aziendale con i sindacati che spesso anche se sono su posizioni intransigenti. Quindi per loro il contratto nazionale è un punto di riferimento, tra l'altro vale per tutti, quindi li mette tutti sullo stesso piano, sì. evita diciamo così comportamenti competitivi fra le aziende, gli dà un elemento di certezza. Ecco quello che prova detto, Marchionne si lamentava un po'. Ricordiamoci che la Fiat, come tutte le imprese automobilistiche, non stanno viaggiando in acque buone. No. Devono diciamo inventare nuovi modelli, insomma hanno un fracco di problemi, anche certo. di natura fiscale, di incentivi, e quindi vorrebbero stare un po' più tranquilli sul versante dell'organizzazione del lavoro, senza ledere certamente i diritti di legge, ma avere delle relazioni sindacali un po' meno antagoniste di contestazione, come spesso succede nel settore metalmeccanico in un'azienda grande come la Fiat. Ecco, vorrebbe un cambiamento di comportamenti basato anche su regole sindacali più certe, che una volta che si firma un contratto aziendale siano quelle che sia approvato anche attraverso un referendum. Ecco, 50 più 1%, c'ha ragione Marchionne, deve bastare 50 più 1%, non è che ci voglia 60, 70, l'80, perché sono percentuali che talvolta non si riescono a raggiungere, che cioè una volta 50 più 1% deve valere per tutti. Ecco, questo chiede fondamentalmente. Assolutamente, a questo punto però mi viene spontanea l'ultima considerazione che volevo da lei, professore. Abbiamo sentito nelle notizie in breve, Audi ha stanziato quasi 11 miliardi per investimenti in ricerca, sviluppo, parliamo di un segmento diverso perché è un segmento per le auto di lusso, però a fronte del miliardo da parte di Fiat. Forse anche su questo qualche considerazione da fare ci sarebbe. Sì, miliardo Mirafiori, poi miliardo... Sì, sì, sì, certo. Cioè forse anche un po' di più, ecco. Certamente, beh, i miliardi, non solo uno, ma se sono diversi, come la Fiat propone, non sono noccioline, insomma, quindi... Anche lì, certo, il confronto con la Germania ci vede sempre perdenti, non c'è dubbio. Sono nato purtroppo per il fatto che la Germania ha iniziato già da 10 anni a fare questo tipo di operazioni. È chiaro che la Fiat, arrivando 10 anni dopo, avrà più difficoltà. Ora, l'alleanza con la Chrysler è un punto a vantaggio, perché significa fare massa critica. Però non c'è dubbio, ecco, non c'è dubbio che il futuro non è certo, è incerto, gli sforzi devono essere enormi. Però bisogna giocarsela questa sfida e non è che possiamo rinunciare in partenza. Questo è quello che dobbiamo mettere in campo la Fiat e di questo dobbiamo in qualche modo accontentarci, fra virgolette. Importante che questo sforzo sia messo in atto anche in Italia e non solo negli altri paesi, non solo negli Stati Uniti, non solo nel Sud America, ecco, ma anche in Italia, in modo da mantenere una certa occupazione. E la speranza è che gli creino veramente posti di lavoro di carattere competitivo, perché essendo in un mercato globale solo questi posti di lavoro si salveranno. Ecco, di qui l'insistenza di Marchionne e anche, diciamo così, la sua, diciamo, di testardaggine nel anche fare violenza al sistema di relazioni sindacali italiano, perché in questo momento può andar bene come può andar bene, ma nel caso della Fiat deve piegarsi un po' a delle esigenze eccezionali e lui si fa portavoce di queste esigenze essendo uomo d'azienda. Grazie al professor Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, per essere stato con noi. A lui buona serata e buon lavoro. Buon pomeriggio a tutti. E noi adesso ci fermiamo per qualche istante, ma restate con noi. Sono le 17:40 minuti e 10 secondi e è arrivato il momento di andare a vedere, a capire che cosa è successo oggi sui mercati. Oggi lo facciamo in compagnia della collega di Radio Cora, Eleonora Micheli. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Spero tu abbia passato un buon Natale. Sì, certamente. Buon Natale a tutti che è appena passato. Allora, Eleonora, una giornata, un risveglio dalle feste, diciamo, non positivo, anzi, segno meno su tutte le piazze europee. Ricordiamo ancora una volta che oggi Londra è rimasta chiusa per festività. In questo momento segno meno anche per le piazze americane, il Dow Jones cede uno 0,28%, il Nasdaq lo 0,71%, Parigi ha ceduto un punto percentuale, Francoforte l'1,23%, a Londra e a Milano, scusate, il FTSE MIB meno 1,25%, il FTSE All Share meno 1,16% e sul listino principale si è salvata Saipem, Ansaldo e poi Luxottica e Parmalat hanno chiuso piatte, per il resto solo segni meno. Esatto, oggi è una giornata comunque caratterizzata da scambi ridotti, visto che è un clima ovviamente semifestivo. È vero sì che le borse europee hanno registrato dei cali, d'altra parte nel mese di dicembre c'era stato anche una sorta di mini rally proprio nelle settimane precedenti il Natale. A Piazza Affari ad esempio il FTSE All Share ha guadagnato oltre l'8%. Oggi dunque sono scattate le prese di beneficio che sono state a dare l'incipit, diciamo, a questi realizzi. È stata la notizia che in Cina sono stati rivisti al rialzo di 0,25 punti i tassi di interesse, notizia che ha fatto chiudere in calo innanzitutto la borsa di Shanghai e di lì a seguire ha fatto aprire deboli tutte le borse europee. Allora, cominciamo dal comparto auto di cui abbiamo appena finito di parlare, perché abbiamo parlato di Mirafiori, un comparto che oggi va male, è andato male in tutta Europa. Andiamo a vedere la chiusura, sempre Fiat come fanalino di coda, meno 3,41%. Sì, Fiat che se guardiamo però la performance di tutta Europa non ha accusato nemmeno la performance peggiore. Il sottoindice Stoxx 600 ha lasciato sul parterre il 3,8%. Diciamo a far paura è stato l'annuncio proveniente sempre dalla Cina che a partire dal 2011 verrà introdotto un tetto alle immatricolazioni in modo da limitare i problemi di traffico e di inquinamento. Quindi ovviamente questo è stato un colpo colpo duro soprattutto per le case auto tedesche, che proprio nel 2010 hanno fatto un boom di vendite di auto, non a caso in Cina. Diciamo, la performance peggiore è stata quella di Daimler Chrysler, ma sono andate male anche le altre azioni auto. Fiat questa mattina aveva provato a rialzare la testa, a festeggiare il fatto che il 23 dicembre è stato firmato l'accordo per Mirafiori, però poi a metà giornata ovviamente ha imboccato la strada del ribasso, risentendo dell'andamento debole dell'intero settore europeo. Comunque poi sale anche l'attesa per la riunione che ci sarà domani a Roma tra i vertici dell'azienda e i sindacati, fatta eccezione della FIOM, per decidere sui dettagli del contratto di lavoro relativo alla New Co dello stabilimento di Pomigliano. Tra i titoli da segnalare, Autogrill. Autogrill, sì, questa mattina andava bene, sul finale poi ha chiuso in calo, ma comunque ha arginato le perdite allo 0,47%. A Piazza Affari la società è stata premiata perché nei giorni scorsi sono stati annunciati tutta una serie di contratti siglati oltreoceano, in particolare un contratto decennale nell'aeroporto di San Francisco che in 10 anni dovrebbe portare un fatturato di 80 milioni, poi l'estensione del contratto fino al 2021 con l'aeroporto di Sacramento e poi il rinnovo fino al 2015 di 2 contratti nell'aeroporto di Toronto, che dovrebbero portare consistenti giri d'affari per l'azienda. Ripeto, questa mattina i titoli andavano bene, erano in rialzo nonostante appunto la debolezza di Piazza Affari, poi hanno invertito rotta nel pomeriggio. Sì, ma come dicevamo in apertura del collegamento con te, veramente pochissimi titoli sono riusciti a chiudere salvandosi. Saipem più 0,38%, Ansaldo più 0,09% e poi Luxottica e Parmalat completamente piatte. Invece in evidenza, almeno nella prima parte, anche i talcementi. I talcementi, diciamo, oggi ci sono stati riflettori puntati per tutto il giorno sulla società di cemento, poi sul finale i titoli hanno chiuso meno 1,67%. Diciamo che il mercato si sta interrogando se l'azienda abbia di nuovo allo studio la fusione con la controllata francese Simon Francais, fusione che aveva tentato di effettuare nel corso del 2009, ma era stata poi bloccata da un gruppo di bondholder americani. D'altra parte, diciamo, andare a far circolare di nuovo questa ipotesi è stata la mossa della scorsa settimana della fusione per incorporazione del gruppo con Société Internationale Talcementi France, mossa che appunto ha fatto sì che i talcementi sarà direttamente controllante la quota dell'82% di Simon Francais. Chissà che sia appunto il preludio a qualcosa di più, anche se è tutto da vedere ovviamente. Allora Eleonora, ti chiedo di pazientare qualche istante perché dobbiamo dare la linea alle informazioni per chi è in viaggio, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Le 17:47 minuti in compagnia di Eleonora Micheli, collega di Radiocor, stiamo analizzando la giornata di borsa. Eleonora, velocissimamente sui bancari, oggi piuttosto deboli. Sì, prese di beneficio, questo non solo in Italia ma in tutta Europa, era il settore che comunque nelle settimane di dicembre ha provato più di altri a rialzare la testa, quindi nel momento in cui scattano le prese di beneficio scattano soprattutto sui settori dove si possono fare i migliori guadagni. Un'ultima battuta sulle Astaldi. Sì, per quanto riguarda Astaldi, oggi i titoli hanno tentato di sono andati in controtendenza, visto che la società si è aggiudicata un contratto ferroviario in Algeria da 417 milioni di euro e quindi la borsa ha festeggiato tale notizia. È molto bene anche le Meridiana Fly. Sì, in questo caso la notizia è di un annuncio di venerdì scorso. La società ha firmato un contratto con un gruppo di banche, BNL, Unicredit e Intesa San Paolo, per l'estensione fino al 2013 di un finanziamento da 15 milioni di euro. Grazie Eleonora Micheli, collega di Radiocor, per averci illustrato la giornata a Piazza Affari. A lei buon proseguimento e buon lavoro, e a chi ci ci chiede che cosa è successo oggi per il titolo Eni, dobbiamo anche in questo caso rilevare una flessione, meno 0,90% per quanto riguarda la seduta di oggi. E adesso noi ci occupiamo di una notizia di cui abbiamo parlato e che abbiamo ripetuto più volte nel corso di questa prima parte di Focus Economia, la politica monetaria cinese, perché appunto ci sono state delle novità. Lo facciamo in compagnia di un ospite, Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Buon pomeriggio, benvenuto. Buonasera dottoressa, come sta? Tutto bene, spero anche per lei, spero che le feste siano andate bene, so che dalle sue parti si mangia abbastanza, spero che comunque tutto nella norma. Sono stato all'altezza delle aspettative. Della situazione. Allora, la notizia qual è? Il giorno di Natale la Cina ha annunciato il secondo aumento dei tassi di interesse in pochissimo tempo, rafforzando le misure per il contenimento dell'inflazione. Un problema che, se non erro, visto da qua giù rispetto alla Cina, è un problema molto sentito in un paese dove comunque i salari sono piuttosto bassi, un'inflazione molto alta, desta non poche preoccupazioni. Sì, è considerato il primo problema dalla popolazione cinese, perché l'inflazione alimentare è del 12%. Quella generale del 5, quella alimentare del 12, però in realtà è anche probabile che sia superiore, per cui le fasce medie e medie basse sono fortemente toccate. In più l'aumento del prezzo degli immobili fa sfumare il sogno di potersi comprare un appartamento, anche questo è molto grave, cioè, sono due fenomeni che minano il paese alla base. Questo aumento di 25 punti base per il tasso di riferimento è sufficiente per in qualche modo appunto aggredire questa inflazione, soprattutto per il futuro? Immagino che le preoccupazioni siano piuttosto importanti, imponenti. No, assolutamente no. Ossia, è un'inezia. Ci sono, come minimo la Cina dovrà alzare il tasso di altri 100 punti nel corso del 2011. E poi, secondo le mie stime, non basterà. Ancora? Basterà, no, perché primo perché in parte il rialzo dei tassi viene neutralizzato dal hot money, dai capitali che entrano alla ricerca di ritorni. Siccome il renminbi è in rialzo, la gente pensa di guadagnare, oltre al tasso di interesse, anche il 5-6% di possibile rialzo sulle altre valute, per cui ad ogni aumento di tasso corrisponde un aumento di liquidità. Questa spiega la riottosità di farlo. Il problema in Cina è abbastanza serio. L'aumento dei tassi è un primo passo, però la risoluzione dell'inflazione richiede una serie di misure molto molto drastiche. Più forti. Sì. Però questo aumento dei tassi in qualche modo determinerà un apprezzamento dello yuan, della moneta cinese, e questo farà felici Stati Uniti ma anche Europa. No, perché è fissata, ha una banda d'oscillazione, sì, certo, sul paniere di monete, per cui Di fatto i cinesi la neutralizzano. Quello che invece io penso che a un certo punto la misura finale ineludibile sarà un apprezzamento dello yuan più alto di quanto possa essere atteso. Ci si attende per il 2011 un apprezzamento del 5, io penso che potrebbero anche aumentare del 7, dell'8, perché finché lo yuan non si rivaluta sarà molto difficile sconfiggere l'inflazione. L'inflazione, quindi in qualche modo la Cina dovrà cedere da qualche parte. Sì, perché ormai le hanno provate tutte. Hanno aumentato le riserve 6 volte, hanno aumentato i tassi 2 volte, stanno imponendo un sistema di prezzi amministrativi, hanno aperto le riserve alimentari, gli stock di cereali, per ovviare i problemi di aumento dei prezzi agricoli, hanno imposto una serie di prezzi controllati. Io mi sembra che come politica antinflazionistica sia ricorso al menù completo. Non vedo che altro se non una forte rivalutazione della valuta. Comunque forse è da prendere con un cauto ottimismo anche questa apertura da parte della Banca Popolare Cinese, che si è detta pronta a migliorare il meccanismo che sta alla base del tasso di cambio dello yuan. Questo è quanto hanno detto loro, insomma. Beh sì, ma c'è una scuola di pensiero molto forte tra gli economisti cinesi che spinge alla rivalutazione. Il dibattito economico in Cina è liberissimo, cioè non esistono, quindi ognuno può dire, fare, disfare, può dire quello che crede. Il dibattito c'è e molti pensano che il renminbi si debba rivalutare, perché la struttura industriale si debba razionalizzare, perché ci debba essere un'ondata di consolidamento, perché si debba tagliare la sovracapacità produttiva. Faccia caso che l'unico mercato che è salito oggi è stato il mercato di Tokyo, perché a Tokyo, che sono molto vicini alla Cina, pensano, alzano i tassi, continueranno ad alzare, alla fine dovranno alzare i renminbi, sì. E questo gioverà le nostre esportazioni, e via che è andato il topic. Infatti più 0,75%, esatto. Solo Tokyo oggi è riuscita a portare a casa un segno positivo rispetto alla desolazione del resto dei mercati. Per noi europei c'è stata un'altra mazzata, che è stata, soprattutto per i tedeschi, che è stata il contingentamento delle auto a Pechino. Sì, infatti ne parlavamo poc'anzi con la collega che ci ha aiutato a capire qualcosa di più della giornata di borsa. Grazie ad Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, per essere stato con noi. A lui buon proseguimento e buon lavoro. Grazie dottoressa, buonasera. Allora, prima di dare spazio al nostro giornale radio, velocemente andiamo a vedere proprio come si sono chiusi i mercati per quanto riguarda l'Europa. Parigi ha ceduto lo 0,98%, Francoforte l'1,23%, ricordiamo che Londra è chiusa. Negli Stati Uniti in questo momento il Dow Jones cede uno 0,3%, il Nasdaq lo 0,69%. Per quel che riguarda Milano, il FTSE MIB ha ceduto l'1,25% e il FTSE All Share l'1,16%. Una giornata che si è chiusa, diciamo, male per tutto il listino principale, fatta eccezione per Saipem, che ha guadagnato lo 0,38% sul finale, Ansaldo, che ha chiuso poco al di sopra della parità, Luxottica e Parmalat, che hanno chiuso piatte, completamente piatte, e di qui in avanti all'ingiù solo segni negativi, a cominciare da TOZ, meno 0,44%, per finire con Fiat, che ha ceduto il 3,41%, il titolo peggiore del listino a Milano. L'ultima notizia che vi diamo prima di lasciarvi al giornale radio: il governo ha confermato il bonus fiscale sulla benzina anche per il 2011. Questo è quanto viene fuori dalla riunione, dall'incontro indetto dal ministro Romani con i sindacati della categoria, scongiurando così la minacciata serrata dei benzinai. Questo è quanto si apprende da fonti sindacali. Vi sapremo dire di più anche nella prossima parte di Focus Economia. Linea al giornale radio, noi ci sentiamo subito dopo. Sono le 18:07, seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 se volete intervenire attraverso i vostri sms. Allora, riprendiamo proprio parlando, o almeno dandovi ulteriori aggiornamenti su una notizia di cui vi ha parlato anche il giornale radio. Il ministro per lo sviluppo economico aveva convocato per questo pomeriggio nella sede milanese del ministero i gestori per quanto riguarda appunto il preannunciato sciopero dei benzinai, e la questione sarebbe rientrata e tutto sarebbe stato risolto. Perché? perché il ministro dello sviluppo economico ha comunicato ufficialmente ai rappresentanti dei gestori l'inserimento del bonus fiscale da 24 milioni, scongiurando proprio lo sciopero minacciato dai benzinai tra Natale e Capodanno. Questo è quanto ha riferito lo stesso ministro al termine di un incontro. Di questo incontro l'esito, ha affermato, è stato largamente positivo, ha detto Romani. Ho portato la conferma ufficiale che nel mille proroghe è stata inserita questa deduzione forfettaria fiscale di 24 milioni a favore degli esercenti per il 2011. Il ministro ha poi parlato anche degli aumenti, perché chi ci ha seguito avrà sentito che tra le notizie in breve che abbiamo dato oggi c'erano anche appunto gli aumenti per quanto riguarda la benzina. Dicevamo, prosegue questa tendenza al rialzo dei prezzi della benzina e del diesel. Tra venerdì e oggi IP, Tamoil, Total Erg hanno messo mano ai prezzi raccomandati dei due prodotti, aumentandoli di un centesimo nel primo caso e di 0,5 centesimi nell'altro caso. Sul territorio poi si registrano rialzi generalizzati sui prezzi medi praticati e valori che superano per taluni marchi 1,47 euro al litro per la benzina, 1,35 per il diesel. Addirittura in alcuni impianti del sud la verde sfiora quota 1,5 euro al litro, mentre il gasolio si avvicina a 1,38 euro. Gli aumenti della benzina di questi giorni, ha detto il ministro, sono allineati a quelli degli altri paesi europei. Questo ha sottolineato il ministro per le attività produttive, rispondendo proprio a una domanda al termine dell'incontro con i rappresentanti dei distributori. Nel nostro paese, ha aggiunto il ministro, l'accisa è inferiore a quella di altri paesi europei. Bisogna invece capire perché il prezzo industriale si collochi nella fascia alta. Quindi c'è da capire, secondo il ministro, perché il prezzo industriale si collochi nella fascia alta. Questa è la spiegazione che ha dato per quanto riguarda i rialzi di questi giorni. Velocemente, prima poi di affrontare quello che è il secondo tema di oggi, quindi le pensioni, velocissimamente vi riepilogo la chiusura dei mercati. Parigi meno 0,98%, Francoforte meno 1,23%, vi ricordo che Londra è rimasta chiusa per festività, a Milano il FTSE All Share ha ceduto l'1,16% e il FTSE MIB l'1,25%. In questo momento, per quanto riguarda le borse americane, il Dow Jones cede lo 0,23%, il Nasdaq mezzo punto percentuale, quindi recupera leggermente il Nasdaq. Ricordiamo anche che le piazze asiatiche hanno chiuso con il segno meno, eccetto Tokyo, che ha guadagnato lo 0,25%. Per tornare a Milano, sul listino principale, il miglior titolo e anche direi l'unico è stato Saipem, più 0,38%, perché Ansaldo ha guadagnato uno 0,09%, Luxottica e Parmalat hanno chiuso piatte, dopodiché solo segni meno, per chiudere con Fiat, peggior titolo, meno 3,41%. Ricordiamo però che nelle scorse sedute Fiat aveva corso non poco, mettendo a segno un rialzo complessivo pari al 14% circa. Per quanto riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,3143 sul dollaro. E adesso invece andiamo a affrontare il secondo grande tema di oggi, che è quello relativo alle pensioni. Stretta in arrivo per chi vuole andare in pensione. Da gennaio infatti saranno necessari almeno 61 anni per uscire dal lavoro a causa dello scatto del terzo scalino previsto dalla riforma del 2007. Età minima per l'assegno di anzianità passa da 59 a 60 anni a fronte di almeno 36 anni di contributi. Scatta anche entra in vigore anche la nuova regola sulla finestra mobile, 12 mesi di attesa una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi. varata quest'estate. In pratica, i lavoratori dipendenti che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi a 60 anni non potranno uscire dal lavoro prima di averne compiuti 61. Per gli autonomi i tempi sono ancora più lunghi, perché la quota diciamo non è 96, quindi 60 anni più 36 di contributi, ma 97, 61 anni più 36 di contributi. La nostra scheda. Con il 2011, il cantiere della Previdenza italiana, aperto con la riforma Dini del 1995, conclude la sua opera. Quello che ne esce è un sistema pensionistico sicuramente meno impegnativo per i conti dello Stato, ma anche meno generoso nei confronti dei cittadini, che dovranno lavorare più a lungo e si troveranno in tasca assegni previdenziali via via meno consistenti. Basti pensare che se oggi la pensione di un lavoratore dipendente vale in media il 52% della retribuzione, nel 2037 non si andrà oltre il 47%. Nel caso di lavoratori precari, si passa poi da stime pessimistiche, al 14% della retribuzione, a calcoli più ottimistici, che indicano una copertura previdenziale tra il 30 e il 50% della busta paga. L'ultimo tassello del puzzle della riforma andrà al suo posto tra pochi giorni, quando scatteranno i nuovi requisiti per accedere alla pensione di anzianità. Con il 1 gennaio, la quota 95, oggi in vigore, e riferita alla somma tra età anagrafica e contributiva, viene sostituita da quota 96. In pratica, chi ha 60 anni dovrà avere alle spalle almeno 36 anni di contributi, chi ne ha 61 almeno 35 e così via. Non basta però, perché con il meccanismo delle finestre mobili, chi matura i requisiti per la pensione di anzianità dovrà aspettare 12 mesi per ricevere il primo assegno. Di fatto dunque l'età minima per il ritiro sale a 61 anni. Nel caso dei lavoratori autonomi, i criteri sono ancora più severi, con il risultato finale che la soglia minima prevede 62 anni e mezzo di età e 36 di contributi. Queste nuove finestre non si applicano a chi ha maturato i requisiti per la pensione nel 2010 e che potrà usufruire del vecchio regime con le due finestre di gennaio e luglio. L'attesa di un anno per il primo assegno riguarda anche le pensioni di vecchiaia, ossia legate solo all'età e non ai versamenti contributivi. Oggi l'età è fissata a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, soglie che però di fatto salgono di un anno in virtù del pagamento ritardato dell'assegno. Per le dipendenti della pubblica amministrazione il limite anagrafico sale dal 2011 a 61 anni e dal 2012 sarà equiparato a quello degli uomini e dunque a 65 anni. Il 2011 porterà anche un piccolo incremento delle pensioni minime e degli assegni sociali, legato allo scatto di scala mobile dell'1,4%. L'assegno delle minime passa da 460 a 467 euro al mese. La rendita assistenziale sale da 411 a 417 euro, mentre la pensione sociale arriva a 344 euro. Questa riassunta ovviamente tutta la riforma, tutto ciò che entrerà in vigore tra pochissimi giorni. Adesso noi però ci fermiamo perché dobbiamo dare le informazioni per chi è in viaggio. Restate con noi. Le 18 e 18 minuti, 23 secondi, stiamo parlando di pensioni perché tra pochissimi giorni, come lo avete sentito anche nella nostra scheda, arrivano delle importanti novità. Lo facciamo con la professoressa Elsa Fornero, docente di economia politica all'Università di Torino, un'esperta di sistemi previdenziali, oltre che editorialista del Sole 24 Ore, che saluto. Buonasera professoressa. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora professoressa, diciamo che dal 2011, quindi tra pochissimi giorni, il sistema previdenziale italiano sarà finalmente a regime, o almeno questo è quanto dicono gli osservatori, non ultimo, non è un osservatore ma è proprio un protagonista, è il Mastra Pasqua, il presidente dell'INPS. Questa mattina sul Corriere della Sera diceva finalmente entra a regime, ci sono voluti molti anni ma la riforma è al suo diciamo massimo livello, a questo punto lo Stato può cominciare a risparmiare. Diciamo che è vero in parte, non del tutto però. Sicuramente alcune cose entrano in vigore e toccheranno tutti gli italiani che hanno la fortuna o la sfortuna, secondo dei punti di vista, di andare in pensione nel 2011. Ma altri ancora verranno, per esempio lei sa che è stato introdotto un'importante novità che partirà dal 2014 e che ritarderà ancora l'età di pensionamento in funzione dell'allungarsi certo. della vita, perché sarà l'indicizzazione di queste età che scattano a partire dal 2011 all'aspettativa di vita. Quindi come sale quella, l'aspettativa di vita, salirà anche l'età. Quello che va in vigore nel 2011 è un insieme di misure che riguardano essenzialmente l'età di pensionamento e sono della riforma del 2007 sì. e poi queste finestre mobili che sono secondo me l'aspetto più discutibile sì. di questo aumento sì. perché l'aumento lo sappiamo, lo sanno tutti gli italiani, è necessario per far fronte all'invecchiamento della popolazione certo. e tenere i conti dell'INPS grosso modo in equilibrio. Questo tutti l'hanno capito e direi anche se ci confrontiamo per esempio con un paese come la Francia che ha fatto più fatica di noi e che è più indietro di noi sotto questo profilo, gli italiani l'hanno accettato relativamente di buon grado. Quello che sembra un po' più discutibile è quello di dire che una volta che una persona raggiunge i requisiti deve aspettare un anno. Se è un lavoratore dipendente e guarda un po' un anno e mezzo se è un lavoratore autonomo, con una diciamo anche qui discriminazione che sembra sottintendere che così il trattamento dello Stato riserva ai lavoratori autonomi è un po' più friendly, un po' più amichevole che non quello che riserva ai lavoratori autonomi. Sì. A me sembra discutibile la misura in sé e mi sembra discutibilissima questa discriminazione. Questa differenza, certo. Senta professoressa, un'altra cosa che mi ha colpito leggendo oggi appunto i giornali, anche il dire che il futuro delle pensioni è oramai nelle mani dei cittadini, è giusto considerare che proprio il futuro delle pensioni sia nelle mani del singolo lavoratore, considerando anche che ad esempio la previdenza complementare non è mai decollata del tutto? E che la previdenza integrativa, quindi quello che ciascuno di noi può, se vuole, ma soprattutto se ha la possibilità di mettere da parte, anche lì diciamo è difficile per chi lavora e guadagna magari 1200 euro al mese, poi pensare anche alla pensione integrativa. Diciamo l'espressione anche qui riflette parzialmente la realtà, ma solo parzialmente. Il sistema pensionistico è pubblico e rimane un pezzo importante, anzi forse il pezzo più importante dello Stato sociale. Per quanto riguarda la previdenza pubblica, né lei né io né tutti gli italiani che ci ascoltano scelgono di versare i contributi all'INPS. Questo è un dato obbligatorio e quindi vuol dire che lo Stato in qualche modo intende proteggere i cittadini contro il rischio di trovarsi senza redditi nell'età anziana e quindi ti obbliga un po' paternalisticamente a fare la pensione. Quello che si vuol dire con quella frase è che la responsabilità individuale rispetto alla sì. propria pensione aumenterà, quindi mentre prima era lo Stato che determinava gli importi, decideva quando si andava in pensione, in futuro la regola contributiva implicherà che la pensione che si riceve dipende dai contributi che si sono versati complessivamente, quindi ovviamente anche tenendo conto dei contributi del datore di lavoro. Quindi si dice: uno, il lavoratore non ha nessun interesse a evadere un contributo e quindi se ha un datore di lavoro che in un certo senso gli dice: senti, i contributi lasciamoli stare e facciamo a metà, sì. questo è un dato assolutamente da evitare perché si perde la pensione e la perdita di pensione è molto grave per il lavoratore. Quindi i lavoratori hanno tutto l'interesse e anche le imprese a far emergere i contributi versati, certo, perché ogni euro di contributo versato contribuisce alla pensione. E di questi tempi, diciamo che... professoressa, le devo girare una domanda perché non... parecchi ascoltatori ci hanno chiesto, ma con i 40 anni di contribuzione, questi con contribuzione massima rimangono invariati? Cioè, non ci sono modifiche da questo punto di vista? No, chi ha 40 anni di contribuzione può andare in pensione e non ci sono variazioni. La quota 96 scatta nel senso che bisogna avere come minimo 60 anni, la quota vuol dire la somma di età e di anzianità contributiva e quindi vuol dire che uno che abbia 59 anni, anche se ha 36 anni di contributi, non può andare in pensione. Uno che ha 60 anni e 36 può andare perché per l'appunto la somma fa 96. Non solo, ma per le donne di fatto del settore privato, perché poi qui c'è tutta quella diciamo cambiamento normativo che ha imposto l'equiparazione, sì, uomo-donna nel settore pubblico, ma nel settore privato di fatto la pensione di anzianità per le donne scompare, perché per le donne nel settore privato l'età per andare in pensione di vecchiaia è 60 anni e quindi non si può più, certo, chiamare pensione di anzianità. Ecco. Senta professoressa, un'ultima battuta, proprio perché siamo in chiusura, molto velocemente. Un paio di settimane fa il Corriere ha pubblicato dei calcoli secondo i quali da qui al 2037 i lavoratori vedranno calare il tasso di sostituzione della propria pensione, cioè il rapporto tra l'assegno dell'INPS e l'ultima retribuzione. Oggi è al 52% circa, nel 2037 sarà al 46% dell'ultimo stipendio, per non parlare poi dei parasubordinati, che lì sarà veramente solo lacrime. Beh, è quello che abbiamo detto prima, i parasubordinati hanno cominciato con aliquote contributive molto basse e ancora oggi versano molto meno, sì, che non i lavoratori dipendenti. Siccome la pensione si calcola sommando, in senso capitalizzando, matematico, tutti questi contributi, attribuendo loro anche un tasso di rendimento, è chiaro che se si versa meno si ha anche di meno. Io direi che bisogna fare attenzione a questi calcoli, intanto perché tutte queste norme sono fatte per indurre le persone ad andare in pensione più tardi. Sì. È certo che se noi diciamo che tra 30 anni la gente va in pensione alla stessa età a cui vanno in pensione oggi, magari ieri, i nostri anziani, è chiaro che avranno molto di meno. Il problema non è la formula con cui si calcolano le pensioni, il problema sono i redditi che sono bassi e discontinui. Certo. Quindi non si può rimediare ai guai del mercato del lavoro guardando le pensioni, bisogna affrontare adeguatamente i problemi del mercato del lavoro. Grazie alla professoressa Elsa Fornero per essere stata con noi, docente di economia politica all'Università di Torino. A lei una buona serata e anche a voi. Arrivederci. E in studio con me ci ha raggiunto il collega Alessio Maurizi, che stasera conduce la Zanzara. Che ciao, cosa, Maria, buonasera. Che cosa è in serbo? Cosa bolle in pentola? Beh, insomma, è una settimana questa che ci accompagna fino al 31 dicembre, un po' più moscia, diciamolo, sul piano dell'attualità politica, però ci sono delle notizie. Insomma, noi partiamo dalla polemica, l'ultima nata all'interno del partito di Di Pietro, dell'Italia dei Valori, la cosiddetta questione morale, con una lettera inviata a lui da parte di alcuni esponenti, tra cui Gianni De Magistris. Insomma, si chiede di fare pulizia nel partito dopo il passaggio, sapete, di Razzi e Scilipoti nell'altro campo, e questa è un po' la mela avvelenata che resta, diciamo, sul campo dell'Italia dei Valori dopo quelle giornate convulse che abbiamo vissuto in Parlamento. E poi vogliamo invitare gli ascoltatori a chiamare anche sul tema dei rifiuti, perché non solo quello che succede a Napoli, ma anche noi crediamo che potrebbe essere un caso ambiente, un caso rifiuti dentro il governo, con le dimissioni del ministro Prestigiacomo, dimissioni annunciate e poi ritirate, ma insomma, 824 0024, come sai, per intervenire in diretta potete chiamare ascoltatori da subito. Grazie ad Alessio Maurizi, e tra pochissimo quindi con la Zanzara. Io vi ricordo però che a proposito del nostro tema delle pensioni, ogni giorno a Salvadanaio c'è una pillola sulle novità della Previdenza. Il 10 gennaio sarà ospite il presidente dell'INPS Mastra Pasqua. A questo punto sono le 18:29 minuti, non mi resta che ringraziare in regia Roberto Scaltritti, in redazione Mauro Del Corno. Noi ci risentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.